GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Giornata di bollino nero sulle autostrade della regione, con code di 3 km all'Isert e rallentamenti al bivio tra A4 e A23, ma al momento si registra un calo del 20% dei transiti in uscita ai caselli rispetto all'anno scorso. E il maltempo che sta caratterizzando questa strana estate dopo il gran caldo del mese di giugno sta condizionando anche la stagione degli affari negli stabilimenti balneari, tenendo lontani i bagnanti ancora in attesa del ritorno del sole. Intanto poco fa è terminata l'allerta meteo gialla della Protezione Civile. Nell'ultimo anno i prestiti bancari alle imprese sono calati, lo rileva uno studio della CGA di Mestre. Tra le province italiane la più interessata dalla stretta al credito è stata Trieste, con il meno 15%. La 37esima giornata mondiale della gioventù in calendario a Lisbona fino a domani prevede ancora due eventi di rilievo, con la veglia di preghiera di questa sera e la Santa Messa di domani, che sarà officiata dal Papa. Tra i partecipanti anche un centinaio di fedeli dal Pordenonese. Estate, tempo di furti negli appartamenti lasciati spesso incustoditi per i giorni di chi va in vacanza. La questura di Pordenone ha predisposto un apposito vademecum con i consigli per prevenire brutte sorprese al ritorno a casa. Le 12:31 minuti e 35 secondi in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Maria Spezia a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 5 agosto. Il maltempo condiziona dunque, pur in modo meno pesante rispetto ai giorni scorsi, il maxi esodo estivo verso le mete delle vacanze. Oggi giornata da bollino nero in autostrada per il secondo fine settimana di grandi partenze con spostamenti di breve e di lunga percorrenza. E già di primo mattino code e rallentamenti si erano formati tra San Giorgio di Nogaro e il bivio tra l'A4 e l'A23 in direzione Trieste. Code di 3 chilometri poi anche in uscita all'Isert e a Villesse. Situazione più fluida alla Tisana. Al momento si registra comunque un calo del 20% dei transiti in uscita ai caselli rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sentiamo qual è ora la situazione alla barriera dell'Isert in uscita dall'autostrada A4 verso la Slovenia e la Croazia. Notte tranquilla al casello di Lisert, i primi rallentamenti sono incominciati alle 6:30 e si sono poi intensificati verso le 8:30 con una coda costante fino ad ora di 3 km circa. Code anche in uscita a Villesse, mentre al momento è praticamente libero il casello di Latisana. Giornata da bollino nero, dunque, come da previsioni che si sono basate sui dati del 2019, aumentati del 13% circa, trend dei passaggi che si sta affermando nei fine settimana di quest'anno rispetto al periodo prepandemico. Lo scorso anno a incidere negativamente sul numero dei passaggi ai caselli fu proprio l'incendio sul Carso. In queste giornate i turisti in partenza per le località di villeggiatura si sommano anche i lavoratori del nord-est Europa che passano il confine italiano diretti verso i paesi d'origine, oltre ai mezzi commerciali di rientro dal nord Italia. Nel corso di tutta la giornata il traffico da intenso diventerà critico sull'A4 in direzione Trieste. Previsti su tutta la rete di autostrade Alto Adriatico circa 200.000 transiti, di questi si prevede circa 23.000 passaggi in uscita e 20.000 in entrata all'Isert, 18.000 in uscita al bivio di Villesse. Come dicevamo, la A34 si sta affermando sempre più come valida alternativa alla 4 per chi è diretto verso le coste slovene e croate. Previsti 19.000 in uscita al casello di Latisana e più di 13.000 in uscita dalla barriera di Cordignano. Queste le previsioni, vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Dalla Tisana, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. E sentiamo ora qual è la situazione del meteo dopo che a mezzogiorno si è conclusa la fase di allerta gialla, che era stata prolungata di 12 ore dalla Protezione Civile. Il cielo è coperto sulla regione con piogge diffuse, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, a Gorizia e Udine 17, a Pordenone 17 gradi e 5 decimi, in Aremontana Tolmezzo 15, Tarvisio 14 gradi e 5 decimi, Piancavallo 11, Sappada 10, Forni di Sopra 12 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 8. Sulla costa a Lignano 18 gradi, la temperatura del mare è di 23 gradi e a Grado 19 gradi, la temperatura del mare qui è di 25 gradi. E queste sono le previsioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma sarà possibile anche qualche rovescio pomeridiano, specie sui monti e sulle zone orientali. Vento moderato da nord o nord-est in quota, in prevalenza da nord-est sulla costa. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabile. Dalle ore centrali saranno possibili rovesci o temporali sparsi, alternati a schiarite. Temperature sotto la norma del periodo, zero termico in calo, sotto i 3.000 metri. E il maltempo che sta caratterizzando questa strana estate dopo il gran caldo del mese di giugno sta condizionando anche la stagione degli affari negli stabilimenti balneari, tenendo lontani i bagnanti ancora in attesa del ritorno del sole. Il secondo luglio più piovoso degli ultimi 30 anni chiude gli stabilimenti balneari a Trieste. Per alcuni la perdita di fatturato in questo primo scorcio di stagione può essere stimata nel 50%. Secondo l'ARPA, quello del 2023 è stato appunto il mese di luglio più piovoso degli ultimi 30 anni, 10 giorni contro i 13 del 2014, anche se in alcune annate le precipitazioni sono state complessivamente più abbondanti. Stiamo andando ovviamente male, commenta Marco Salviati, gestore di stabilimento e anche rappresentante dei gestori per Trieste. Abbiamo perso completamente il mese di maggio e quello di giugno, mentre in gran parte dei giorni di luglio, nel primo pomeriggio, sono arrivati temporali o vento forte che hanno spezzato la giornata. A questo si aggiunge il fatto di essere stati costretti a ridurre l'offerta di servizi a causa della carenza di personale. In confronto agli anni scorsi potrei dire forse che il lavoro è dimezzato a causa del maltempo, conferma Sandra Damianovic. Questo ti porta a dover chiudere lo stabilimento, perché avere pioggia, intemperie e mare non fattibile ti porta a tenere i bagnini a casa. È la metà del lavoro per noi. Abbiamo la fortuna di avere il bar e il ristorante aperto, che però, se il castello di Miramare non ha turisti, lavora poco anche quello. La stagione non sta andando per niente come ce l'aspettavamo. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento. Da maggio del 2022 a quello di quest'anno, i prestiti bancari alle imprese italiane sono calati del 5% e tra i 20 paesi dell'Eurozona solo Cipro ha avuto un risultato peggiore del nostro. Lo rileva uno studio della CGA di Mestre su dati della BCE. E tra le province italiane la più interessata dalla stretta al credito è stata proprio Trieste, che ha segnato un calo alle imprese del 15%. Nell'ultimo anno i prestiti bancari alle imprese del Friuli Venezia Giulia sono calati del 10,1% per un totale di 1 miliardo e 700 milioni di euro in meno. Lo afferma l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha analizzato i dati forniti dalla Banca d'Italia. Si tratta di numeri più che doppi rispetto alla media nazionale, meno 4,5%, che collocano la nostra regione al secondo posto in Italia per contrazione del credito, dietro solo alla Valle d'Aosta. Guardando i dati delle singole province, Trieste è la maglia nera d'Italia, seguita da Aosta e Biella. Tra maggio 2022 e lo stesso mese del 2023, la riduzione dei prestiti alle imprese dell'area giuliana è stata del 15%, meno 673,8 milioni di euro. In provincia di Udine la contrazione è stata del 10,2%, meno 790,4 milioni, a Pordenone del 5,9%, meno 205,9 milioni e a Gorizia del 2,9%. Meno 32,5 milioni. Tra i grandi paesi dell'Unione Europea, l'Italia è quello in cui il cosiddetto credit crunch ha colpito più duro. Il calo della Spagna è stato infatti più modesto, meno 2,8%, mentre in Francia i prestiti alle imprese sono cresciuti del 4,5% e in Germania addirittura del 7,4%. Secondo gli esperti interpellati dalla CGA, le cause di questa stretta sul credito, che ha colpito soprattutto le piccolissime imprese, sono da ricercare nel rallentamento dell'economia mondiale, a cui si aggiunge il forte inasprimento del costo del denaro imposto nell'ultimo anno dalla Banca Centrale Europea, che avrebbero indebolito di molto la richiesta di liquidità. Inoltre, nel periodo della pandemia, molte imprese avevano aumentato i risparmi e ora che in Italia la remunerazione dei depositi è tra le più basse d'Europa, trovano più conveniente autofinanziarsi. Una situazione, conclude allarmata la CGA, che non potrà durare a lungo. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. La 37esima giornata mondiale della gioventù in calendario Lisbona fino a domani prevede ancora due eventi di rilievo, con la veglia di preghiera di stasera e la santa messa di domani, che sarà officiata dal Papa. Tra i partecipanti anche un centinaio di fedeli dal Pordenonese. Dei 350.000 pellegrini da 140 paesi presenti alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, 1.000 sono dal Friuli Venezia Giulia, un centinaio da Pordenone. Una ventina sono scout di Casarse, un'ottantina ha aderito al viaggio diocesano con trasferimento in autobus guidato da Don Davide Brusadin del Consiglio Diocesano, alla quinta esperienza negli incontri internazionali di spiritualità dedicati ai giovani. Il Papa ha un'attrazione incredibile per tutti i giovani, per tutte le persone, è una calamità e quello che sta portando e quello che sta dicendo ci piace davvero tanto. L'attesa è ora per la veglia di preghiera di stasera, trasmessa in diretta su Rai 1, a cui parteciperanno 700.000 giovani, e per la Santa Messa di domani con il Papa, che dovrebbe essere partecipata da 1 milione di persone, di cui molte dal Portogallo. È davvero un bel vedere, ecco, di persone. Una chiesa davvero giovane, non siamo abituati in Friuli a vedere così tanti giovani partecipare alle nostre celebrazioni, ai nostri momenti insieme, e qui è davvero, c'è il mondo, è un mondo giovane, è un mondo che dà speranza. Vivide anche le emozioni dei giovani fedeli in viaggio con il religioso. Il Papa è il più vicino ai giovani che io abbia conosciuto, e ci sa parlare in modo veramente straordinario, e da una persona del suo calibro e della sua età nessuno si potrebbe aspettare una cosa del genere. Ieri abbiamo partecipato alla Via Crucis e la Via Crucis in generale mi è piaciuta molto, ma alla fine hanno cantato una canzone, c'erano tutte le bandiere che sventolavano, i ragazzi che si abbracciavano, e è stata un'emozione molto forte. La cronaca: la scorsa notte la questura di Udine ha predisposto una serie di controlli a Lignano Sabbiadoro e lungo la strada regionale 354 per situazioni di guida in stato d'ebbrezza, per assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Sono stati sottoposti a controllo 66 veicoli e sono stati oggetto di accertamento della guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche 66 persone, delle quali 4 sono risultate essere positive alla prova etilometrica. Un conducente è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, poiché controllato la guida della propria auto e sottoposto all'accertamento tramite etilometro, è risultato positivo con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti, mentre alle altre 3 è stata inflitta una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. Per tutte è scattato il ritiro delle relative patenti di guida con decurtazione di 40 punti patente. Infine sono state contestate 2 sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada conseguente al comportamento errato di guida, e poiché un veicolo circolava senza la revisione. Estate, tempo di furti negli appartamenti lasciati spesso incustoditi per giorni da chi va in vacanza. La questura di Pordenone ha predisposto un apposito vademecum con i consigli per prevenire brutte sorprese al rientro a casa. Torna l'estate e tornano anche i furti negli appartamenti. Con le vacanze le case si svuotano, lasciando spazio e possibilità ai malintenzionati. Per questo la questura di Pordenone ha stilato un decalogo di accorgimenti da mettere in pratica per evitare di avere brutte sorprese al rientro dalle ferie. Il questore Luca Carocci. Noi raccomandiamo sempre un aumento per quanto è possibile delle difese passive, quindi sistemi di allarme, telecamere, sistemi anti-intrusione. Poi ci sono anche dei consigli piuttosto semplici, come per assenze di breve periodo lasciare delle luci accese, non diffondere mai in maniera eccessiva sui social le località dove uno è, perché è chiaramente è un messaggio per dire non sono a casa, mi trovo in vacanza. Sono consigli validi sempre, ma quest'anno ancora di più. Quest'anno è molto favorevole perché cade di martedì, giorni Ferragosto, quindi con lunedì uno si può assentare da casa da venerdì fino a martedì compreso, quindi sono 4 giorni, è un periodo piuttosto importante, abbastanza lungo, e credo che tantissimi ne approfitteranno. Tra chi ne approfitterà, purtroppo, ci può essere anche chi intende fare un furto in casa. Il commissario capo, Maria Concetta Losurdo. Il fatto di pubblicare delle foto su Facebook, dire che non si è a casa, aiuta i ladri a capire il periodo in cui si manca proprio dall'abitazione, e questo li agevola anche nel fatto di avere più tempo per poter cercare la rifurtiva da portare via. Anche nelle mail, anche comunque avere delle risposte automatiche di email in cui si dice tornerò in questa data, sicuramente agevola i ladri. Tra i consigli c'è quello di fotografare in anticipo gli oggetti preziosi in modo da facilitare l'individuazione in caso di ritrovamento della refurtiva, e se quando si torna a casa si trova la porta aperta è meglio non entrare per evitare le reazioni dei ladri. Il picco dei furti resta sempre agosto, anche se ormai le nuove abitudini dei vacanzieri obbligano a tenere gli occhi aperti per tutta l'estate. Da giugno fino a settembre è un periodo in cui noi siamo molto più attenti, anche nei controlli. Per quanto riguarda Pordenone, gli agenti hanno notato uno spostamento dei furti dal centro alla periferia. Le cause sono varie, dalla videosorveglianza all'alto numero di eventi e celebrazioni, che hanno allontanato i ladri in cerca di luoghi più tranquilli. Pordenone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Continua il nostro approfondimento sulle fake news, cioè le notizie false, la disinformazione che corre in rete, spesso senza controlli, che possono evitare la presenza delle classiche bufale. Sentiamo il servizio di Simona Tanzini della redazione di TG Leonardo. L'ispirazione alla fine degli anni Ottanta fu di Piero Angela e di un gruppo di scienziati. Nacque così il CICAP, all'epoca acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Nel corso degli anni la P finale è stata cambiata in pseudoscienze. Comprendiamo ancora il paranormale all'interno delle nostre attività, ma ci occupiamo un po' delle bufale, delle fake news, insomma, a seconda di come vogliamo chiamarle, e anche delle dichiarazioni, perché poi in fondo il comitato si occupa più che altro delle dichiarazioni che vengono fatte su materie scientifiche in senso lato, anche storiche, quindi comprendendo anche scienze umanistiche. Divulgazione, comunicazione con gli enti e anche collegamento. Piero Angela ha sempre voluto che il CICAP fosse un tramite tra gli scienziati e le persone. A volte prendiamo le sollecitazioni delle persone e le portiamo agli scienziati per capire come siano davvero le cose, altre volte cerchiamo di rendere più chiare le dichiarazioni degli scienziati. Recentemente è stata inaugurata una piccola biblioteca a Torino in collaborazione con le biblioteche civiche torinesi al mausoleo della Bella Rosin. Aperta al pubblico una volta al mese solo per la consultazione, ospita circa 500 volumi e le pubblicazioni del CICAP come i quaderni monografici. Tutti i numeri della nostra rivista, Query, e moltissime donazioni invece di simpatizzanti, sia sul versante delle scienze, sia sul versante delle pseudoscienze. Tra le attività del CICAP anche l'organizzazione di incontri su vari temi, in cui l'accento viene posto sul metodo, lo spirito critico. Il metodo che si utilizza in queste occasioni è lo stesso che poi le persone possono utilizzare nella vita quotidiana, quando leggono una notizia, quando sentono una dichiarazione, quando leggono gli ingredienti magari di un cibo e si fanno delle domande su alcune parole che vengono scritte o anche nelle pubblicità. Quindi diciamo che anche in questo caso le conferenze non sono il fine, non siamo dei divulgatori. È un'occasione per parlare e per cercare di far crescere lo spirito critico in chi ci ascolta e in chi ci segue. Ad esempio, sull'argomento radiazioni è stato organizzato un incontro a Torino con Michele Stasi, fisico medico. Ci occupiamo prima di tutto di misurare la dose di radiazioni che arriva ai pazienti negli ambiti principali dell'uso delle radiazioni in ospedale, che sono la radioterapia, la medicina nucleare e la radiologia, e poi ci occupiamo di tutto il controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche e radioterapiche e medico-nucleari. Sul sito dell'Associazione Fisica Medica uno spazio è dedicato a rispondere ai dubbi delle persone. Abbiamo una rubrica aperta al pubblico, un forum, in cui ci arrivano veramente tante domande, devo dire la verità, e c'è un gruppo di esperti che risponde. Il sito è fisicamedica.it. Siamo allo sport calcio in vista dell'esordio in Coppa Italia la prossima settimana e di quello in campionato contro la Juventus. L'Udinese ha giocato ieri un amichevole contro i catarioti dell'Al Rayyan, imponendosi in rimonta per 2-1. Udinese a tutto gas già nei primi minuti dell'amichevole contro i catarioti dell'Al Rayyan, preceduta dalla presentazione dei giocatori. In un quarto d'ora ci sono una traversa su tiro cross di Camarà, da posizione angolatissima, un'occasionissima sprecata da Beto, smarcato magistralmente da Toven con il portiere avversario battuto, conclusione respinta sulla linea da un difensore, e un gol di testa di Beto annullato per una spinta che non sembrava così evidente. La squadra ospite non sta a guardare e colpisce su calcio piazzato a metà del primo tempo. La punizione ad aggirare la barriera è di Al Rawi, palo gol, bella esecuzione e si sa nel calcio a gol mancato corrisponde spesso gol subito. Tra le due formazioni c'è una certa differenza e l'Udinese trova il pareggio dopo una decina di minuti. Ancora Toven, micidiale sulla fascia sinistra, cross, portiere un po' in ritardo, Beto lo anticipa e insacca un attimo prima di scontrarsi con l'estremo difensore ospite. Nella ripresa passano 5 minuti, la squadra di Sottil va in vantaggio. Condizione analoga a quella del primo gol, ma a parti ribaltate. A fondo di Beto sulla fascia sinistra, il punto debole della difesa avversaria. Assist per Toven che con grande tempismo anticipa il difensore e segna da distanza ravvicinata. 5 minuti dopo Beto cerca con insistenza la doppietta personale, salta il portiere, ma la sua conclusione è respinta da Thiago Mendes, immolatosi a difesa della propria rete. Sembra un duello personale tra l'attaccante dell'Udinese e il portiere Becker, ma ancora una volta Beto non passa, prima su Lovric e poi sul successivo tap-in. E all'elenco delle occasioni si aggiunge Toven, tiro dall'interno dell'area, respinta dell'estremo difensore. Poco dopo il palo a respingere la conclusione di Toven. L'allenatore Sottil giudica positivamente la prova dei suoi. Siamo andati in crescendo, potevamo fare molti gol. Senza Samardžić, che ha le valigie pronte, non è andata male. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora calcio, la Triestina impegnata nell'ultima settimana di ritiro a Ravascletto si misurerà in un test in avvicinamento alla nuova stagione giocando ospite della Pro Gorizia, calcio d'inizio alle 17 allo stadio Berzot. Intanto è stato ufficializzato che il campionato di Serie C partirà il 3 settembre e il calendario si conoscerà lunedì prossimo. Si stanno intanto definendo proprio in questi giorni le composizioni delle serie minori e c'è molta attesa per scoprire quale sarà il campionato nel quale giocherà il prossimo anno il Pordenone, che non ha ancora perso le speranze di iscrizione alla Serie D. Sembrano diradarsi le nubi sul futuro del Pordenone Calcio. Dopo mesi di silenzio, il presidente del club nero-verde, Mauro Lovisa, ha annunciato che entro il prossimo lunedì si dovrebbero completare gli accordi finanziari con tutti i tesserati. Questo è il contenuto di uno stringato comunicato stampa ufficiale della società dopo che da mesi il patron si era chiuso in un silenzio stampa. Lovisa, da noi contattato, ha dichiarato di essere molto fiducioso per il grande lavoro svolto in queste ultime settimane che ci permetterà di presentare la domanda di iscrizione alla Serie D. La prossima settimana saranno illustrati i termini dell'accordo e così si potrà allestire squadra e staff e recuperare il tempo perduto. La vicenda della società nero-verde era esplosa nelle ultime giornate del campionato di Serie C, quando la procura di Pordenone ne aveva chiesto il fallimento per una situazione finanziaria insostenibile. Ne era seguito poi da parte della società la richiesta di ristrutturazione del debito, la rinuncia all'iscrizione al campionato di Serie C. I nodi da risolvere erano il pagamento delle spettanze passate ai tesserati che dal mese di marzo non ricevevano emolumenti, con un piano che ne prevedeva il pagamento dell'85% in 4 rate, con l'ultima scadenza marzo 2024, e l'afflusso nelle casse della società neroverde di denaro fresco attraverso nuove sponsorizzazioni per l'allestimento di una nuova squadra per affrontare il prossimo campionato. Criticità che con la dichiarazione odierna del padron sembrerebbero risolte. Pordenone, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ciclismo, il quartetto italiano composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, il bugliese Jonathan Milan e l'azzanese Manlio Moro, quest'ultimo schierato al posto di Simone Consonni, si è qualificato per la finale dell'inseguimento maschile a squadre mondiali di ciclismo su pista in scena a Glasgow, dopo aver superato in finale la Nuova Zelanda con il tempo di 3 minuti 46 secondi e 855 centesimi. Questa sera alle 20:10 ora italiana in programma la finale fra Italia e Danimarca per la medaglia d'oro come alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Quarta e ultima tappa per la 50ª edizione del Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia, avviata giovedì da Tricesimo, partenza da Buia per giungere da prima a Fagagna, risalire ad Artegna fino a Tolmezzo e poi arrivare al Forte di Osoppo in un percorso di 80 chilometri a fronte di un dislivello di 300 metri. Per il tennis, la finale del torneo internazionale ETF femminile del Friuli Venezia Giulia si terrà presso l'Eurosport in Cordenonza alle 17:30 a contendersi il titolo la slovena Veronica Eriavez e la rumena Alexandra Cadantu Ignatic. Il docufilm Baia, la città sommersa, per la regia di Marcello Adamo, ha vinto la 14ª edizione dell'Aquileia Film Festival, rassegna di cinema, arte e archeologia organizzata dalla Fondazione Aquileia. Il film è risultato il più gradito al pubblico in base alle votazioni online. Protagonista della serata di ieri, che è andata in onda in diretta streaming a causa della pioggia, dalla Domus di Tito Macro ad Aquileia, è seguita da 3.500 spettatori con collegamenti da 14 nazioni, è stata condotta dalla conduttrice e autrice televisiva Alicia Colò. Dopo la pausa di sabato, di oggi e di domenica, sono in programma altre due serate fuori concorso. Lunedì alle 21 la presentazione del manuale di viaggio Aquileia, una guida di Elena Commessatti. Martedì serata conclusiva dedicata ai protagonisti del film Le donne di Pasolini, del regista Eugenio Cappuccio. A seguire la proiezione del docufilm che rilegge Pierpaolo Pasolini attraverso le donne più importanti della sua vita, l'amata madre Susanna Colussi, Maria Callas, Laura Betti, Oriana Fallaci e Giovanna Benporad, partendo dai territori friulani in cui è cresciuto e da cui ha tratto ispirazione. Qualche appuntamento per oggi: il programma della rassegna itinerante estiva Vicino Lontano Monte, dedicata ai temi della montagna, prosegue a Tualis alle 20.30 con un omaggio alla fotoreporter carnica Gigliola Di Piazza, che prevede proiezioni di immagini sulla facciata della sua casa natale, scattate sulle scene musicali milanesi, accompagnate dalla musica degli artisti fotografati. Il ciclo di rievocazioni storiche Le stagioni delle armi, giunto al nono fine settimana, propone un approfondimento dedicato al Cinquecento dal titolo Picche e alabarde, i lanzi imperiali, alla scoperta di lanzichenecchi e varie figure civili e militari dell'epoca, dalla sartoria alla cucina fino all'addestramento e all'uso della picca. A Trieste, al Castello di San Giusto, con visite guidate alle 15, alle 16.15 e alle 17.30. La Marcia delle Quattro Chiese, sedicesimo Memorial Lucio Cimiotti, iniziativa di corsa o camminata non competitiva, prevede il ritrovo a Piano d'Arta, nel piazzale della Chiesa di Santo Stefano, alle 15, con partenza alle 17. La mostra Delle foreste e delle acque sarà inaugurata a Casso, al nuovo spazio di Casso al Vajont, alle 18. La manifestazione Calici di Stelle fa tappa a Paradiso di Pocenia in Villa Caratti dalle 18.30 per la serata su prenotazione, che proporrà dimostrazione di creazioni artistiche su botti di rovere e accompagnamento musicale dei Trio Blu. Per la musica, terzo appuntamento per il ciclo Note del Timavo, Tango da pensare, con la fisarmonica e la voce del fuoriclasse Fausto Beccalossi e il chitarrista e compositore lucano Gio Pisto, al Castello di Colore di Monte Albano alle 21. Vento d'estate, rassegna culturale e sociale che dal 2010 riempie anima il parco Martiri delle Foibe a Udine. Per il suo sesto appuntamento ha in calendario il concerto degli EMSI alle 20.30. Nuovo evento per il Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi, con il concerto Vive la France per Sara Mazzarotto al violino e David Mancini al pianoforte. Musiche di Ravel e Debussy a Campolongo Tapogliano, a Villa Marcotti Chiozza alle 21. Infine anche due spettacoli: Green Shakespeare, Trees, Storms, Flowers and the Moon, lo spettacolo itinerante organizzato dal Teatro Rossetti a Trieste nel Parco di Miramare, che parla della natura attraverso le opere e i personaggi di Shakespeare restituiti da attori in costume. Appuntamento alle 19.30. La 14ª edizione di Area Danza Urban Dance Festival si concluderà a Venzone. Primo appuntamento della giornata, la prima nazionale di Queen's Jam, produzione della compagnia Area, ironico tributo ai Queen, in cartellone in piazza del municipio alle 17. E si conclude così questo appuntamento con l'informazione, che è stato redatto da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Edoardo Veglia. Prossimo appuntamento con il GR alle 14.30, a tutti voi ancora l'augurio di un buon sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.